un primo anno di mandato, siamo contenti di aver lavorato insieme alla città, che vogliamo ringraziare. 12 mesi nei quali abbiamo aperto più di 70 cantieri, investito risorse per realizzare 15 km di piste ciclabili, riavviato dopo tanti anni i cantieri nelle scuole, solo in questo primo anno di mandato 9 scuole nuove, un mandato nel quale abbiamo trovato i soldi per la disabilità, 1 milione di euro in più nelle scuole, risorse che ci serviranno per affrontare un anno difficile per tutto il paese, nel quale Bologna e il suo bilancio saranno punto di riferimento. Lei ha detto che nel 2023 non aumenteranno i costi dei servizi, ma che dobbiamo prepararci ad una crisi che riassume quelle che abbiamo passato. Sì, noi abbiamo vissuto la crisi finanziaria, la crisi immobiliare, la crisi climatica. Se ci guardiamo alle spalle 2 anni di pandemia, davvero ci sembrava che nulla di peggio potesse accadere. Purtroppo noi dobbiamo essere sinceri con i nostri concittadini, i prossimi anni saranno anni nei quali tutte queste crisi si sommeranno e il governo nazionale avrà il compito di portare l'Italia fuori da questa tempesta. Gli enti locali sono fondamentali, perché gli enti locali gestiscono i servizi pubblici, dalla sanità alla scuola, al trasporto pubblico, al sostegno agli anziani. Noi non possiamo chiudere le case per gli anziani o i servizi sanitari nei quartieri. Per questo Bologna, che ha un buon bilancio, a differenza purtroppo di tanti altri enti locali in Italia, chiuderà i propri conti il 31/12, come abbiamo fatto ogni anno, ed è pronta ad investire nuove risorse. Grazie anche ai fondi europei che abbiamo attirato, 1.200 milioni di euro in un solo anno, sono cifre che prima si raccoglievano in 5 anni. Sbloccare i cantieri è la nostra missione, ma soprattutto non lasciare indietro nessuno con i servizi che devono rimanere attivi. Il giorno scorso l'appello dei sindacati, anche di alcune associazioni di categoria che dicevano che bisogna fare di più per la città, lei ha annunciato una variazione allo statuto, si parla di cogestione per i prossimi anni. Sì, noi abbiamo fatto un patto con oltre 400 realtà del mondo del terzo settore, lavoriamo con il percorso che ci siamo dati con i sindacati e le associazioni di categoria. Questo significa amministrare in modo condiviso, ascoltare anche quando ci sono le critiche. Per noi l'emergenza oggi condivisa con i sindacati sono sanità e energia, perché le bollette arrivano a tutti e sono forti. Il comune si impegnerà intanto a far sì che le bollette degli enti pubblici non ricadano sulle tasche dei bolognesi. Manterremo le tariffe e i tributi inalterati nel 2023, chiaramente di trimestre in trimestre monitoriamo. Controlleremo col governo tutto questo, ma vogliamo essere in comune da combattimento a fianco dei cittadini. Circa 40 milioni di euro che bisogna recuperare per il bilancio, come li troverete? Lotta all'evasione fiscale o altro? Sicuramente lotta all'evasione fiscale, che già nello scorso anno ci ha garantito 30 milioni di euro. E poi continueremo a riorganizzare i servizi con maggiore efficienza. Possiamo anche produrre risorse, ad esempio sull'energia, questo si può fare. Possiamo fare altrettanto con lo sport e con il turismo. Il turismo sta tornando a crescere e crediamo che questa sia un'opportunità. Però hanno annunciato che i biglietti potrebbero aumentare, i biglietti degli autobus. In realtà l'assessore Corsini ha ipotizzato questa cosa, non ti per, è una discussione che sicuramente andrà fatta, il comune sta lavorando perché l'aumento del biglietto non ci sia, chiaramente dipende molto dal prossimo governo, attendiamo fiduciosi il fatto che si possa affrontare col prossimo governo in maniera collaborativa. Allora, gli aumenti sono del 30% in media su tutti i cantieri, pensate che solo sulle scuole per l'approvvigionamento delle mense abbiamo più 9 milioni di euro di previsione di costi per l'inflazione. È chiaro che se l'Europa non si muove a mettere il tetto del gas, Banca Centrale Europea non riesce in qualche modo a fermare l'inflazione, il governo prossimo non finanzia gli enti locali, si andrà in una spirale recessiva molto forte, anche peggiore di quella che il governo uscente ha previsto. Noi dobbiamo lavorare col prossimo governo come enti locali per far sì che questa crisi non la paghino i cittadini, e Bologna sarà in prima fila su questo. Lei ha detto che Bologna sta diventando una città dove tutti vogliono vivere, non si trovano case anche per questo. Dall'altro lato della medaglia diventa anche una città molto costosa, non ci sono case, i giovani cercano anche di andare via, viste le condizioni. Allora, noi abbiamo già in questo primo anno di mandato messo risorse per il contributo all'affitto in maniera inedita, considerate che l'anno precedente a quando siamo arrivati noi c'erano circa 2.000 domande e contributi per l'affitto e siamo arrivati a quasi 8.000, anche perché abbiamo finanziato e si è capito da parte dei cittadini che era possibile avere le risorse. Abbiamo messo in campo risorse anche per gli studenti fuori sede e i lavoratori fuori sede. Ora è arrivato il momento di un piano per un nuovo stock abitativo nella città, a partire da ciò che è già costruito e cementificato, ma occorre che ci sia un piano casa nazionale, non solo comunale. Noi faremo la nostra parte. Chiaro che Bologna si sta facendo carico anche di persone che vanno via da altre città. Molti giovani italiani, prima di andare a Londra o da altre parti, si fermano a Bologna e a Milano principalmente. Quindi noi siamo felici, da un lato, di trattenere tanti talenti, tanti giovani italiani che rimangono nel nostro paese. Bologna da sola ce la può fare se siamo in tempi normali. In tempi straordinari abbiamo bisogno che anche il governo faccia la sua parte, e mi auguro che il prossimo governo nazionale innanzitutto ceda le aree di smesso connessi ai comuni. Questa sarebbe una cosa importante. La grande soluzione abitativa di Bologna nel dopoguerra si è fatta perché il comune di allora, grazie anche ai finanziamenti statali, poté acquisire tantissime aree, renderle pubbliche e poi metterle a disposizione del movimento cooperativo per fare case. Oggi questi meccanismi non sono più attuali, ma di certo abbiamo 18 aree dismesse militari e ferroviarie solo a Bologna, e sono così in tutte le grandi città italiane. Se il governo decidesse di cederne una parte gratuitamente ai comuni, questo già sarebbe una cosa importante. E poi che ci aiutassero a snellire gli appalti, perché se vogliamo fare il PNRR e tutto l'investimento del miliardi di fondi europei che ci vengono dati, abbiamo bisogno che il governo sia partner e non controparte nella soluzione dei problemi. Abbiamo bisogno di snellire l'installazione dei pannelli fotovoltaici, abbiamo bisogno che l'edilizia pubblica diventi una priorità, come la sanità, perché guardate che il fatto che manchino 5 miliardi di euro a livello nazionale sulla sanità è una questione che tocca in particolare alcune regioni dove la sanità esiste. In Emilia Romagna, insieme alla Toscana, un quarto degli ospedali e delle case di riposo per anziani, quindi è evidente che la bolletta, in particolare dell'energia, la stiamo pagando prevalentemente noi. Il prossimo governo deve guardare questi aspetti.